Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». «Perché costui parla così?» dicevano. «Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, dico al paralitico: alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Ma che bel brano del Vangelo! Veramente Gesù ha il potere di perdonare i peccati. E come facciamo a saperlo? Perché ha dato prova di far camminare questo paralitico. Se Gesù ha dato prova di far camminare questo paralitico, un evento che noi possiamo constatare con i nostri occhi, con le nostre mani, vedere, sentire e toccare, vuol dire che allora lui è anche capace di perdonare i peccati. Perché? Perché appunto ne ha dato prova. Il fatto di riuscire a fare un miracolo fa vedere come Gesù è veramente Dio, e quindi Dio solo può perdonare i peccati. Questo lo dicevano già anche gli ebrei. Infatti hanno accusato Gesù di bestemmia, cioè di farsi come Dio, proprio perché lui perdonava i peccati. Perché Dio ci perdona i peccati? E perché tutti i peccati devono essere perdonati da Dio? Se ci facciamo caso, che cos'è il perdono? Il perdono è quando una persona continua ad amarci come se non avessimo fatto del male. Ecco, come se non avessimo fatto del male. Non che questa persona se lo dimentica, non che lo minimizza, non che dice non è stato niente, no, ma continua a volere il nostro bene. E Dio è colui che ci perdona sempre. Perché? Perché è colui che sempre vuole il nostro bene. Ma non sempre noi siamo perdonati. Come mai? Perché non sempre noi ci apriamo al perdono di Dio. Cioè, Dio è amore, può solo amare. Quindi è chiaro che Lui ci perdona sempre, perché perdonare vuol dire continuare ad amare come se non avessimo sbagliato. E siccome Dio è amore, non può fare altro che amare, Dio sicuramente ci perdona. Eppure noi non sempre siamo perdonati. Perché? Perché non ci apriamo a questo perdono di Dio. Vi faccio un paragone. Se c'è il sole fuori e splende, il sole splende sempre. Se io sono tappata in casa, abbasso tutte le tapparelle e non faccio penetrare nemmeno un raggio di luce, ha voglia che il sole splende, io non vedo nemmeno uno spiraglio di luce. E così è per chi non si apre al perdono, cioè quelle persone che continuano imperterrite nella loro strada del male. Allora oggi cerchiamo di fare un po' mente locale e vedere: ma io da quanto tempo non mi confesso? E perché faccio tanta fatica a confessarmi? Che cos'è che mi trattiene dall'andare al sacramento della riconciliazione? Forse la vergogna, forse la paura, forse penso che non ci credo, forse penso che l'ho fatta troppo grande. Forse ho paura del sacerdote, forse non voglio cambiare vita. Qual è il motivo vero che mi allontana, che mi tiene lontano? Forse perché penso, ma è inutile, tanto ricado sempre nelle stesse cose, negli stessi peccati. Sì, è vero, ricadiamo sempre negli stessi peccati, ma è vero anche che ogni giorno noi facciamo la doccia, eppure ci sporchiamo ogni giorno, però provate a non farvi la doccia per tanto tempo, voglio vedere chi vuole stare vicino a voi. Ecco, noi è tanto tempo magari che non ci confessiamo, chissà quanto puzza la nostra anima, chissà che fetore sta mandando. E sapete qual è il fetore dell'anima? È quando noi inquiniamo le persone che ci vivono accanto. Come le inquiniamo? Con il nostro nervosismo, con i nostri insulti, con i nostri pettegolezzi, le nostre calunnie. Ecco, tutto, insudiciamo tutto. Quando appunto noi siamo sporchi, contaminiamo tutto ciò che viene a contatto con noi. Allora è necessaria proprio questa pulizia. E uno dice, ma io non vedo differenza se mi confesso o non mi confesso. Guardate, a lungo andare si vede tanto la differenza. Quando uno si confessa, veramente diventa una persona diversa. Perché? Perché il perdono non vuol dire solo che Dio continua ad amarci, non vuol dire soltanto che il peccato è cancellato, ma il perdono è una nuova creazione. Noi siamo creati nuovamente da Dio. Abbiamo quindi la forza e la capacità di combattere contro ciò che ci ha spinto al male. Allora facciamo il proposito di provare. Che ci perdi a fare una confessione? Provaci. Tu dici: io non ci credo, ma prova, vedi la differenza. Metti tutto nelle mani di Dio. Diglielo proprio: Signore, io ho difficoltà a credere in questo sacramento, ma voglio accostarmici sulla tua parola. Voglio fare questa esperienza. E vedrai che la tua vita ti sorriderà di nuovo, ti sentirai leggero come non sei mai stato. Fai la prova, abbi coraggio. E per concludere vorrei citarti questo aforisma. Il perdono è una forza che risuscita vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza. Papa Francesco, buona giornata.